la luna, dice il burlarino, parla il mio cimino. Chi noi vai con una cimina, ci la vorrei. Oh, you're a good boy.